A Tempo di Sport di Giovanni Capuano. Buon pomeriggio allora da Tempo di Sport, menù ricchissimo questo pomeriggio, un menù nel quale parleremo non soltanto di calcio, perché oggi ci sono state, lo avete sentito nel nostro GR, le prove del Gran Premio di Singapore e si annuncia una domenica davvero difficile per la Ferrari e per Fernando Alonso, che partirà soltanto quinto sulla griglia di Singapore. Davanti a lui partono i suoi diretti avversari nella corsa al mondiale, cioè Lewis Hamilton con la McLaren e Vettel sul Red Bull. Parleremo anche del mondiale di ciclismo, perché domani tocca ai professionisti, non partiamo favoriti ma c'è sempre la speranza di fare il colpaccio. Io intanto saluto e ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauricella in regia, saluto e ringrazio anche Massimo Oddo. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a tutti. Perché partiamo, e non poteva essere diversamente, dal Milan e da questa settimana incredibile dei rossoneri, che si è chiusa, Massimo, poco più di un'ora fa a Milanello, con un monologo di 4 minuti di Massimiliano Allegri, uno sfogo perché ce l'aveva tanto per cambiare con i giornalisti, che noi abbiamo provato a sintetizzare in questi 50 secondi. Te li faccio sentire. Ho letto su alcuni giornali questa settimana di una mia rassegnazione il fatto che stava addirittura trattando sulle dimissioni. Allora, non c'è assolutamente rassegnazione da parte mia, né da parte mia né da parte della squadra, perché credo che questo sia una mancanza di rispetto verso tutti i tifosi e soprattutto verso la società. Quando sono partito per il terzo anno per il Milan e soprattutto dopo le cessioni il 18 luglio di Ibra e di Thiago, ho accettato questa sfida con grande entusiasmo e con grande determinazione, cosa che abbiamo sia io che la squadra. Poi possiamo vincere, possiamo perdere, però sicuramente da questo momento ne verremo fuori. Seconda cosa, qui chiudiamo. Mercoledì sono andato al Vismara, c'è stato uno scambio di idee e di opinioni, anche perché scherzi non ce ne possono essere, perché ormai lui fa l'allenatore come me, quindi in panchina non ce lo posso più mettere, quindi non si può più arrabbiare. Credo che sia stata ingigantita, anche perché il Milan credo che sia un esempio di lealtà e di educazione e di rispetto di tutti i dipendenti di uno verso l'altro, e io ne faccio parte e credo molto nel rispetto e nell'educazione. Ora possiamo passare tranquillamente alle domande sulla partita di domani. Questo Massimiliano Allegri, nessuno ovviamente è poi tornato sull'argomento perché l'ordine era chiaro, nessuna domanda soprattutto su quanto accaduto al centro Vismara davanti, pare, ai ragazzini della squadra allievi del Milan. Massimo Oddo, che idea ti sei fatto di questa settimana incredibile del Milan? Una settimana che ha portato i rossoneri sulle prime pagine dei giornali. C'è anche chi ha scritto non è più il Milan di una volta, ma anche nella capacità di sigillare gli spifferi di spogliatoio. Massimo? Ma guardate, io perdonatemi, ma non ho sentito nulla, era disturbatissimo, è caduta anche la linea, quindi non ho sentito nulla. Ha detto ti faccio un riassunto, ha detto che ha mancato di rispetto a lui chi ha scritto che quest'anno è demotivato e che soprattutto la vicenda con Inzaghi è stata ingigantita. Questo è un po' il pensiero di oggi di Allegri. Beh, vabbè, ma diciamo che quando le cose vanno male e un po' tutti incominciano a scrivere quello che vogliono, si cerca sempre il capro espiatorio, si cerca sempre di dare colpe all'uno o all'altro. Quando le cose vanno male è un insieme di circostanze che fanno sì che si va male e basta, quindi le colpe insomma vanno divise un po' tra tutti, perché c'è un allenatore ma ci sono anche giocatori che vanno in campo, c'è una società, c'è un momento difficile, un momento di ricostruzione, questo credo che sia inevitabile, no? Un po' tutti si aspettavano, compresi i tifosi, si aspettavano un momento così, perché quando perdi dei giocatori importanti con un certo carisma che assolvono a dinamiche importanti all'interno di uno spogliatoio, e quando perdi giocatori poi effettivamente molto importanti in campo, campioni come Thiago Silva e Ibrahimovic, non ti puoi aspettare di ottenere lo stesso rendimento e gli stessi risultati degli anni precedenti, quindi credo che questo momento di difficoltà era preventivabile. È vero anche che sicuramente il Milan ha perso partite con squadre alla sua portata, però credo che determinato sia stato anche l'inizio di questo campionato, una sconfitta in casa che ha fatto sì che il morale crollasse subito dall'inizio. Certamente. Probabilmente una partenza diversa avrebbe agevolato un pochino la situazione. Tu che li conosci bene, guardandoli negli occhi, anche durante la pace televisiva, molti hanno scritto la recita di ieri in sede davanti alle telecamere di Milan Channel, quanto sono stati sinceri Inzaghi e Allegri? Ma io conosco i personaggi, se non l'avessero voluto fare non l'avrebbero fatto, nonostante le pressioni magari anche societarie. Io credo che se è stata fatta una cosa di questo tipo è perché c'era la convinzione, magari, io non so bene cosa sia successo, però se dovesse essere successo qualcosa, se il quello che è accaduto dopo è una pace davanti a tutti, è un segno da parte della società, degli addetti ai lavori, del fatto che all'interno della squadra son tutti uniti. Per squadra intendo società, giocatori, allenatori, tecnici, tutti quanti. E quindi l'importante è che ci sia questa unione di intenti e di riprendere un cammino che deve essere quello di una grande squadra come il Milan. Tu conosci bene Pippo, davvero una personalità così forte da poter risultare ingombrante per un allenatore, anche semplicemente dalla posizione di tecnico degli allievi? Cioè, non dobbiamo dimenticare che Inzaghi in fondo ha due panchine con gli allievi e basta, nel senso che ha smesso di giocare praticamente l'altro ieri. Cioè, davvero può essere così ingombrante per Allegri, Inzaghi? Ma risulta essere ingombrante chi viene spinto un pochino da quelli che sono i mass media, che oggigiorno fanno un po' l'essenza di questo calcio. Insomma, se tutti i mass media remano per una stessa cosa, in questo momento tutti scrivono Pippo Inzaghi, è normale che non è che sia personalmente abbia un carattere così forte Inzaghi da poter andare in prima squadra, sono i mass media che lo spingono. Cioè, tu dici che siamo noi giornalisti che stiamo creando il caso Inzaghi? Ma io, con tutto rispetto, credo proprio di sì, perché, ripeto, ci si aspettava questo momento, siamo all'inizio del campionato, abbiamo fatto appena 3 partite, io credo che sia assurdo mettere in discussione un allenatore come Allegri, che ha vinto al primo anno al Milan, ha fatto bene l'anno scorso, per un pizzico non ha vinto il secondo scudetto, quindi credo che l'inevitabile essere italiani che provoca queste reazioni e queste situazioni. Massimo, ti rubo ancora un minuto, noi dobbiamo fermarci per le informazioni sul traffico, poi però voglio chiederti se questo Milan ha o no ancora in spogliatoio dei leader che possano aiutare la squadra a uscire da questo momento difficile. Ci fermiamo però per le informazioni sul traffico. Vi ricordo i numeri 800 24 00 24 per le vostre telefonate, per dirci cosa ne pensate del Milan, ma non solo, perché parleremo anche ad esempio del mondiale di ciclismo che domani vive il suo appuntamento più importante a Falkenburg. Se volete scrivere 349 238 6666 oppure su Twitter @ tutti convocati, ma potete cercarci anche sulla nostra pagina Facebook A Tempo di Sport. Massimo Oddo, per chiudere su questa settimana incredibile del Milan, ho letto da qualche parte che tu sostieni che a questa squadra oggi è rimasto soltanto Ambrosini come leader credibile all'interno dello spogliatoio. È sufficiente per aiutare Allegri ad uscire da questo momento? Io credo che di leader ce ne siano anche altri. Il problema è che il leader lo deve dimostrare poi in campo, sia in campo che fuori. In questo momento vedo come unico leader Ambrosini, perché lo conosco bene, so che tipo di ragazzo è, che tipo di trascinatore può essere all'interno dello spogliatoio. Probabilmente ce ne sono altri, però è in questi momenti di difficoltà che deve uscire qualche leader nuovo, e tutti quanti ci auguriamo che in questo momento possa esserci qualcuno che magari prenda un attimino in mano la situazione, che abbia il coraggio di non osare e di diventare leader in mezzo al campo. Difficile però esserlo, noi l'abbiamo visto l'altra sera a fare quasi l'allenatore insieme ad Allegri, il capitano non giocatore. Difficile essere leader da quella posizione, sei un po' troppo fuori dal gioco o no? Ma non è che conta più di tanto. Io credo che ci possono essere due tipi di leader diversi. Sono i leader quelli che magari sono utilissimi anche all'interno di uno spogliatoio, anzi fondamentali all'interno di uno spogliatoio, perché sappiamo che ci sono delle dinamiche all'interno di esso che sono troppo complesse e complicate per capire. e dentro uno spogliatoio, come ho detto prima, quando perdi 5-6 elementi che hanno un certo carisma, poi nei momenti di difficoltà le paghi ancora di più. E poi ci sono anche i leader in campo, quelli che sono capaci di fare la differenza. Quando tu hai un giocatore in campo di fare la differenza, di trovare la giocata e far gol, automaticamente quelli diventano leader. Grazie Massimo Oddo. Grazie a voi. Grazie Massimo, è stato davvero un piacere, ci ha aperto le porte dello spogliatoio del Milan, uno spogliatoio che Massimo Oddo ha frequentato e anche recentemente, perché lo ricordiamo, Oddo è stato campione d'Italia con il Milan di Allegri nell'estate del 2011, è stato campione d'Europa da titolare con l'ultimo grande Milan di Ancelotti, Allegri e Inzaghi li conosce bene e questo è il suo parere su come il Milan possa uscire da questa crisi. Domani però fare puntati su Udine, perché se Allegri dovesse perdere certamente tornerebbe a essere messo in discussione anche sul breve termine. Io saluto Dario Ceccarelli, collega di Radio 24, che è qui con me per parlare del mondiale di ciclismo. Buon pomeriggio Dario. Buon pomeriggio Giovanni, anche agli ascoltatori. Allora, domani appuntamento a Falkenburg con quella che è un po' l'altra nazionale degli italiani, perché è vero che il ciclismo ha forse meno seguito dal punto di vista mediatico del calcio, però è vero che questo appuntamento, quello del mondiale per professionisti, è un rito che si ripete ogni anno e che da un certo punto di vista ci mette insieme un po' come fa la nazionale di calcio quando ci sono i mondiali e gli europei. Sì, ci ricompatta per un giorno. Poi c'è anche il fascino di questa cosa che è tutto in una giornata, per cui è sempre, vince quasi sempre il più bravo, ma c'è anche un pizzico di fortuna perché l'imprevedibilità gioca un suo ruolo. Questa volta siamo a Valkenburg, un nome che risuona. Siamo in Olanda, nei Paesi Bassi. Un nome che risuona un po' sinistro nella storia del ciclismo, perché dei tempi di andare nella preistoria del ciclismo, nel 48 Bartali e Coppi fecero una delle loro pagine più nere, neutralizzandosi a vicenda con gli emigranti italiani che li fischiavano. Sì, non abbiamo mai fatto bellissime figure. Non abbiamo mai fatto. Nel 98 Bartoli fece un terzo posto e poi gli Under 23, sempre nel 98, con Ivan Basso, Rini e Nocentini e mi sembra Di Luca, fece invece una tripletta che è rimasta nella storia. Noi a Falkenburg abbiamo un inviato davvero speciale. Io saluto Giorgio Squinzi, storico patron della Mapei, oggi è presidente di Confindustria, ma si è ritagliato un fine settimana di assoluto relax con il ciclismo. Buon pomeriggio Squinzi. Buon pomeriggio a tutti. Che tempo fa intanto, perché molte delle bello, poche speranze. Un sole, c'è un bel sole, non caldissimo perché qui è difficile in questo periodo dell'anno una temperatura molto alta, ma però è molto bello. Perché molte delle poche speranze, Squinzi, degli italiani sono legate a che domani ci sia il vento o la pioggia, insomma qualcosa che possa un po' mischiare le carte e magari azzerare un po' le differenze di valori che oggi ci separano, almeno in sede di pronostico, dagli spagnoli, dai belgi. Ero qui nel 98 e mi ricordo una giornata molto brutta, con un tempo veramente orribile, e però alla fine si rischiò, almeno per me come patron, perché vinse uno dei miei corridori, con l'Oscar Kamenzin, uno svizzero, che poi però non ha avuto una grandissima carriera, ma quel giorno fu veramente nettamente superiore a tutti, e quindi è un ricordo piacevole. Allora, non partiamo da favoriti. Come ricordo il giorno precedente la tripletta degli italiani, in modo particolare la vittoria di Ivan Basso tra i giovani, un corridore che mi è rimasto nel cuore, innanzitutto poi passò professionista in una squadra legata al gruppo Mapei, che era la Vinavisa di Roscotti, e poi ricordo anche che Ivan Basso da alcuni anni è poi seguito dal centro Mapei Sport di Castellanza, e il suo rientro alle competizioni dopo la squalifica è avvenuto proprio con la collaborazione di Mapei Sport e a questo timbro di garanzia. A questo timbro di garanzia. Il compianto professor Aldo Sassi. Allora, noi non partiamo favoriti, lo abbiamo detto, però vogliamo regalare agli amici che ci ascoltano da casa una piccola pillola di un minuto, l'ha montata il nostro Giorgio De Luca, perché davvero il mondiale è capace di trasmettere delle emozioni che poi restano nel tempo. Sentiamola. Oh, aumenta il vantaggio, sentiamo il grido di Gimondi. Io penso che lo meriti e quindi è un onore per tutti noi italiani. Faranni campione del mondo, Faranni campione del mondo, Faranni campione del mondo. C'è stata una sbandata incredibile da parte di Bauer ed è Fodriest che vince, Maurizio Fodriest, campione del mondo. In Durain affianca Bugno, parte Bugno, Bugno in testa, attacco di Durain nella scia di Bugno, Bugno si volta, controlla la corsa e Bugno alza forse le braccia un anzitempo, ma Bugno è campione del mondo. Cipollini con McHugh e la ruota, Cipollini davanti, Cipollini, Cipollini, Cipollini, ed è nostro il mondiale! Beh, ricordi presidente, ha sentito? Fa venire la pelle d'oca ancora. Come patrono di squadra ciclistica ho rimpianto. Noi abbiamo vinto 4 volte il campionato del mondo, ma mai con un italiano. Anche se avevamo contribuito poi nel 2002, l'ultimo anno di nostra presenza in ciclismo, alla vittoria di Cipollini con tutti i nostri corridori che si misero disciplinatamente a servizio di Cipollini. E poi abbiamo goduto perché uno dei nostri alfieri, uno di quelli che mi sono sempre stati più vicini al cuore, quel Paolo Bettini che adesso fa il commissario tecnico, vinse 2 volte il campionato del mondo in maniera spettacolare e molti avrebbe potuto vincere di più. Certo, non partiamo da favoriti, ci sono 6 debuttanti su 9, Dario Ceccarelli, fa un po' effetto dirlo, perché noi siamo sempre stati abituati a essere la nazionale leader, quella che faceva la gara. Sì, in effetti è la novità di questo mondiale, in genere noi appunto arriviamo come la nazionale da battere, quella su cui tutti mettono gli occhi, e questo è avvenuto anche per una scelta precisa di Paolo Bettini e della federazione. A questo proposito volevo chiedere a presidente Squinzi se le sembra corretta e giusta come scelta intanto investire nel futuro e poi insomma fare un po' chiarezza anche dove ci sono questioni non risolte di doping. Lei cosa ne pensa, presidente? Beh, io sono assolutamente in linea con Paolo Bettini e soprattutto considerando che il Bettini commissario tecnico non può disporre di un Bettini corridore quindi non c'era alternativa che puntare sui giovani e credo che la scelta sia giustissima e io prima di fasciarci la testa e dire che non contiamo favoriti aspetterei un attimo perché potremmo anche essere la sorpresa. Sulla scelta di aver tenuto a casa anche i corridori solo sospettati, coinvolti all'interno di inchieste di doping, quindi non soltanto i condannati o quelli che in questo momento sono squalificati, come ovvio, siamo un po' autolesionisti visto anche come si comportano gli altri movimenti, o in fondo è la nostra la strada giusta? Ma io personalmente, voi ricordate che noi con la nostra squadra siamo stati un po' degli antesignani della lotta al doping. Chiaramente io condivido questa scelta anche perché ero presente alle Olimpiadi a Londra, vittoria di Vinokurov, e le assicuro che c'è un po' di imbarazzo. Non l'ho vista come una pagina gloriosa del ciclismo, insomma. Presidente, oltre a Nibali, che sicuramente non è da scoprire adesso, ci sono anche però dei giovani interessanti. C'è appunto Moreno Moser, che anche se ho sentito che ha avuto qualche problema fisico negli ultimi giorni, si è recuperato, secondo me si può sicuramente presentare nel finale come uno dei possibili pretendenti e comunque mi sembra che la squadra sia un buon mix di giovani e qualche uomo di esperienza tipo Luca Paolini, quindi credo che sia una buona squadra. Paolo Bettini come commissario tecnico ha lavorato bene e io mi auguro che finalmente sia assistito dal risultato. Sarebbe affascinante rivedere un Moser sul podio dopo Francesco, suo nipote Moreno. Sarebbe una bella storia di ciclismo e di sport. Io sono convinto che magari fosse, io mi auguro già quest'anno, ma sicuramente nei prossimi anni questo succederà. Dario. E gli avversari, si parla molto bene degli spagnoli e dei belgi. Lei cosa pensa? Ma visto un po' la Vuelta, ero convinto che il favorito d'obbligo fosse Valverde. Però ho letto stamattina sulla Gazzetta dello Sport che è svenuto ieri intanto che stava mangiando, quindi forse c'è qualcosa, non è forse perfettamente a posto. Su questo percorso il favorito naturale, se avesse un grado di condizione appena decente, chiaramente comunque rimane Gilbert. E però possiamo anche sperare che i belgi si dividano, perché poi questi mondiali sono anche storie di rivalità, storie che alle volte esulano dalle capacità tecniche. Onestamente, per quello che ricordo, questo è un circuito troppo duro per Bonen, anche se Bonen è un corridore di grandissima classe. E comunque adesso lo verificherò, perché fra pochi minuti, appena terminata la gara delle donne, farò un giro personalmente, un giro del circuito in bici, eventualmente ve lo dico dopo. Certamente. Per chiudere, presidente, se diciamo che, non dovendo vincere, poi alla fine se la prenderanno tutti con Bettini, un po' come al Milan, lei è un grande tifoso milanista, se la stanno prendendo tutti con Allegri, lei che cosa dice, cosa ne pensa di questa settimana incredibile del suo Milan? Beh, i risultati mancano, io mi sento un po' parte in causa, perché Bettini, come commissario tecnico del ciclismo, voi sapete che era vicino al mio cuore, è stato dilettante nelle mie squadre dilettantistiche, è passato al professionismo, l'abbiamo accompagnato nel suo percorso per diventare un campione assoluto, e una delle persone che mi sono state più vicine nel ciclismo. E quanto ad Allegri, vorrei ricordare che anche qui sono, il mio giudizio è un po' di parte, perché Allegri nel grande calcio l'abbiamo lanciato noi come proprietari del Sassuolo, e lui ci portò in Serie B, aveva ancora un anno di contratto con noi, però mi chiese di essere liberato e andare al Cagliari, lo feci e me ne sono pentito, perché se l'avessi tenuto a quest'ora il Sassuolo sarebbe stato in Serie A. Magari torna o anche no, Dario. Vedo, tra l'altro, le ultime notizie anche di oggi, il Sassuolo è in gran spolvero. Quest'anno sembra in grande spolvero, veramente. Stava vincendo con lo Spezia 2-0. Ha vinto. Quinta vittoria consecutiva e primato, quindi le diamo la notizia. In classifica. È per quello che Allegri non serve. Da solo, sì. È per quello che Allegri non serve, quindi magari torna perché si libera dal Milan nei prossimi mesi, ma anche no, giusto? No, io spero che il Milan, al di là di queste turbulenze di questi giorni, recuperi il ruolo che gli spetta come tradizione, e comunque credo che anche il parco dei giocatori non sia poi così dispensabile. Sicuramente non da perdere sempre in casa. Ibra sarebbe stato diverso. Va bene, grazie a Giorgio Squinzi. Arrivederci. Prego, arrivederci. Grazie a Giorgio Squinzi da Falkenburg. Abbiamo provato a presentarvi quella che sarà dunque l'appuntamento domani con il Mondiale di Ciclismo. Io ricordo rapidamente, per chiamarci 800 24 0024 il nostro numero verde, oppure via SMS 349 238 6666, via Twitter @ tutti convocati. Ci fermiamo, pubblicità, meteo e poi torniamo. 800 24 0024 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure potete scriverci anche su Twitter @ tutti convocati. Francesco dalla provincia di Latina, buon pomeriggio. E buon pomeriggio a lei e complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Volevo parlare del problema del Milan. In pratica, secondo me, non nasce da questa stagione, ma è un problema dirigenziale che si protrae dalla scorsa stagione, in quanto praticamente è stato mal gestito tutto il discorso tecnico, e anche quest'anno si protrae. L'ultima punta dell'iceberg è stata la pantomima della lite Allegri-Inzaghi, che francamente è stata di uno stucchevole inqualificabile, e secondo me la dirigenza dovrebbe fare un passo indietro e dare la voce a persone tifosi. L'ultima su Allegri ha vinto un campionato, è arrivato secondo in un altro, ma secondo me è l'allenatore che è più fortunato che bravo. La sua realtà è una Grosseto, al massimo la Fiorentina. Sì, anche se in realtà aveva fatto bene Allegri, caro Francesco, anche in realtà un po' più grandi rispetto al Grosseto. E poi io credo che forse il vero errore del Milan, ma chiedo conforto anche a Dario Ceccarelli, che il Milan lo segue da vicino, sia stato nella mancanza di chiarezza a fine agosto, quando è bastato prendere Bojan e De Jong per spingere Gagliani a dire che l'obiettivo era lo scudetto. Messo questo peso sulle spalle di Allegri e sulle spalle del gruppo, difficilmente per qualsiasi allenatore è poi possibile resistere alla delusione di una partenza difficile. Dario? Sì, sono pienamente d'accordo con te, Giovanni. È chiaro che il Milan l'anno scorso viveva sulle individualità di Ibrahimovic, di Cassano, era una squadra non costruita su un collettivo ma su giocatori che risolvevano la partita. Passare improvvisamente da una squadra di quel tipo a una squadra dove invece ci sono dei giovani di incerto futuro, peraltro, perché non vedo ancora dei talenti all'orizzonte, senza fare un programma di investimento proprio sui giovani, è come così buttare allo sbaraglio un allenatore. Poi Allegri in questo momento mi sembra un po' confuso. La vicenda con Inzaghi denota anche un suo stato di stress, forse oltre il quale non... Sì, siamo sicuramente oltre i livelli di guardia. Buon pomeriggio a Guido Vaciago, collega di Tutto Sport, che segue la Juventus, però conosce molto bene poi le realtà anche di questi spogliatoi. Buon pomeriggio, Guido. Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta. Anche perché a me la vicenda di Allegri sta ricordando, e in queste ore mi è tornata alla mente, ad esempio, anche la vicenda di Del Neri alla Juventus. Cioè, esistono dei parallelismi su questi tecnici che a un certo punto capiscono di essere, diciamo, stati scaricati dalla società, dall'ambiente, da spogliatoi difficili, e vanno un po' in cortocircuito, o no, Guido? Ah sì, abbastanza. A me ricorda una situazione che a Torino si è vissuta quando Ranieri, più che Del Neri, era quasi alla fine della sua corsa e Ferrara premeva da dietro. Ferrara era dentro la società, né più né meno come lo è adesso Inzaghi, non era allenatore, però si occupava del settore giovanile, quindi l'analogia è in qualche modo curiosa, e Ferrara effettivamente veniva in qualche modo nominato dai giornali. Ferrara era un personaggio popolare, né più né meno quanto era simpatico. Inzaghi, era simpatico, ci sono vari parallelismi. Ranieri non ha proprio sbroccato, però insomma certamente nell'ultimo periodo sentiva questa pressione, e un allenatore certamente non deve essere facile per un allenatore. Ranieri aveva forse un po' più di esperienza rispetto ad Allegri, e poi chissà, Ranieri ha la saggezza romana, mentre invece Allegri è un livornese fumantino, quindi poi magari c'entra anche il carattere. Certo, diceva prima Massimo Oddo che siamo noi giornalisti che stiamo creando il personaggio Inzaghi legato alla panchina, forse non ha tutti i torti. Io credo che i giornalisti siano semplicemente una cassa di risonanza di quello che succede. C'è qualche giornalista, ahimè, che qualche volta, non dico inventa, che è una brutta parola, però costruisce delle notizie, però la maggior parte di noi non fa altro che amplificare delle cose che succedono. Io non sono molto dentro le cose di Milanello, non sono molto vicino alle cose di Milanello, ma per quanto possa vedere da osservatore da lontano, comunque da conoscitore di delle situazioni calcistiche, penso che non sia una cosa totalmente giornalistica il fatto che Inzaghi stesse puntando alla panchina del Milan e stia puntando. Non c'è dubbio, se tutti lo scrivono vuol dire che qualche telefonata alle persone giuste arriva. Intanto Stefano su Twitter, chiocciola tutti convocati, ricordo l'indirizzo, scrive: Allegri non è male, però non è adatto a una grande squadra, perché al Milan serve più un manager che un tecnico. Alla Juventus invece questa sera, Guido, servirà capire se esiste un altro Pirlo. Può essere Pogba o può essere una diversa organizzazione tattica in campo. Fatto sta che il Pirlo visto nelle ultime due settimane evidentemente ha convinto Conte che c'è bisogno di un po' di riposo, anche perché siamo soltanto all'inizio della stagione, e questa sera contro il Chievo vedremo se davvero questa squadra può fare a meno del suo faro in mezzo al campo. Sì, sono d'accordo. Pirlo è un monumento del calcio italiano e come tale va preservato. Noi italiani non siamo molto bravi spesso a preservare i nostri monumenti veri, almeno cerchiamo di preservare quelli del calcistici. Quindi Pirlo è stato spremuto molto, ha fatto una stagione tremenda l'anno scorso perché non ha saltato mai una partita, ha fatto l'europeo, adesso probabilmente patisce questa situazione, quindi è giusto che venga fermato per rifiatare, non è certamente lui in discussione. La Juventus un nuovo Pirlo non l'ha neanche cercato quest'estate, a parte il momento in cui è stata dietro Verratti, che forse poteva essere un giocatore di quel tipo. E mi ricordo che quest'estate, chiacchierando con Marotta, anche diciamo fuori dalle virgolette ufficiali, lui mi diceva: è inutile che andiamo a cercare un altro Pirlo non esiste, non c'è, dobbiamo cercare di essere bravi e immaginare una Juve che gioca senza Pirlo in maniera leggermente diversa. E quindi secondo me è quello che vedremo questa sera. Sì, c'è un po' di rimpianto, Guido, io credo, però in casa Juve, nel vedere come Verratti si è immediatamente ambientato nel grande calcio, nel Paris Saint-Germain, insomma, diciamo la verità, cioè, non dimentichiamo che è vero che poi a quelle cifre era impossibile da prendere, ma c'è stato un momento in cui la Juventus l'aveva in mano a cifre inferiori e ha forse perso il treno giusto, l'attimo giusto, discutendo sul prestito di un paio di ragazzi della primavera. Sì, io non so se è veramente andata così o se in quel momento il Pescara ha capito che poteva monetizzare molto di più e quindi la trattativa si è incagliata proprio solo meramente su questioni economiche, ma al di là di questo dettaglio sono d'accordo con te, c'è un rimpianto enorme perché forse Verratti poteva essere davvero il giocatore che metteva a posto quel ruolo per il dopo Pirlo. Forse però mi lascio un piccolo dubbio, Verratti sta facendo bene, mi auguro per il calcio italiano che faccia sempre meglio, però Verratti è ancora un giocatore di 19-20 anni, è un giocatore che deve ancora dimostrare molto, quindi in fondo è una scommessa. È una scommessa come è Pogba. Pogba è arrivato a parametro zero, Verratti sarebbe stato pagato 11 milioni, quindi tutto sommato, scommessa per scommessa, quella di Pogba può essere più interessante, anche se ahimè non è italiano. Oggi di sicuro Pogba non andrà in campo con il telefonino per mandare sms, mi raccontano d'ambiente Juventus che le 2-3 settimane senza fare un minuto in campo che sono succedute a quell'evento siano state legate anche a una certa irritazione di Conte, però Guido, mi dai la conferma? Dopo un minuto ci fermiamo per il traffico. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, numero verde, oppure i messaggi 349 238 6666 su Twitter, @ tutti convocati. In linea Guido Vaciago, collega di Tutto Sport che segue la Juventus, però c'è un'ultima ora che viene da Falkenburg ed è la conferma che questo sembra essere, Dario, un mondiale stregato per i colori italiani. Sì, ha vinto la Super Voss, che era la favorita, è una che vince sempre perché Marianne Voss è, diciamo, il faro del ciclismo femminile. È arrivata secondo Nyland e la Longo, il nostra, è arrivata terza a 18 secondi, quindi un bronzo che ci consola parzialmente. Ricordiamo che nell'Under 23 è andata male anche lì, è stata una debacle. Fabio Felline, che aveva qualche possibilità, è arrivato nel gruppo staccatissimo, per cui insomma niente. Quindi non ci resta che sperare domani nei professionisti. Guido Vaciago, Pogba ha pagato o no quell'SMS mandato, rilanciato dalla panchina? In realtà poi è un episodio, non si trattava di un SMS bensì di un tweet che era una, siamo rimasti era indietro, una cosa che era uscita su Twitter, sì. Poi era stato detto che Pogba non aveva un account Twitter ufficiale, quindi la cosa era stata in qualche modo smentita. E certo che questo Pogba è un personaggio con grande personalità, al punto che ha avuto dei faccia a faccia duri con Alex Ferguson, quindi non con l'ultimo degli allenatori, proprio perché lui è uno che voleva giocare, anche nel Manchester aveva avuto dei momenti un po' di irrequietezza. Io, al di là della questione caratteriale, che forse ha un pochino infastidito Conte, ma non al punto da escluderlo stasera, perché indubbiamente il ragazzo ha talento, a me piace molto, l'ho intravisto quest'estate in un paio di amichevoli e soprattutto al trofeo Berlusconi, dove mi è sembrato un ragazzo di personalità enorme. Gli ho visto fare una ruleta in faccia a Robinho, che non è proprio una cosa che fa un primavera, non è certamente uno timorato, forse un po' troppo eccessivo, un po' troppo esuberante, mi dicono quelli dello staff di Conte, che deve calmarsi, deve magari educarsi un pochino di più tatticamente. Non è certamente un Pirlo, non ha la visione di gioco di Pirlo. È un giocatore forse più moderno anche dal punto di vista fisico. Assomiglia più a Vieira, se vogliamo fare un paragone eccellente, che poi non vorrei fosse troppo pesante per lui come fardello da portare, però anche in Inghilterra i colleghi inglesi me lo segnalavano come nuovo Vieira, sia per appunto la grande potenza fisica e il tipo di gioco che sviluppa. È uno che magari non ha, ripeto, il lancio di Pirlo, però ha una grande capacità di verticalizzazione ed è uno a cui non dispiace neanche inserirsi e tirare. Di conseguenza sarà una Juve magari meno, con un gioco ancora più frenetico, ancora più agonistico rispetto a quando c'è Pirlo, quindi una Juve ancora più da corsa e quindi che probabilmente cercherà di porre tutto sul ritmo la partita, cercando di annichilire il Chievo soprattutto nella prima parte, ma potendo contare anche su una grande tenuta. Io per scherzo questa mattina ho fatto un lancio su Twitter proprio perché credo molto in Pogba e ho detto questo ragazzo questa sera stupirà, sono pronto poi a ritwittare tutte le pernacchie nel caso questa sera. Nel caso dovesse andare male. Intanto, dovesse deludere. A proposito di giocatori che stanno andando non bene, però benino, fine del primo tempo a Bastia, il Paris Saint-Germain è avanti 2-0. Indovina Guido chi ha segnato? Allora, vediamo un po'. Ibrahimovic. Ibrahimovic, e c'è un altro ex del nostro campionato, ma del resto è difficile che non ci sia un ex del nostro campionato nel Paris Saint-Germain, Menes. Però, insomma, ecco, questo Ibrahimovic è un talento da seguire, perché non è male come giocatore. Si farà. Ci scrivono da casa, Antonio, al 349-238-6666. Le analogie Ferrara-Inzaghi rischiano di andare fino in fondo, e questa non sarebbe una buona notizia, Dario, per il Milan. Assolutamente. Tanto mi veniva in mente un altro parallelo, quello con Zaccheroni, che più o meno vinse anche lui uno scudetto il primo anno, poi dopo l'ha sopportato. Però Zaccheroni aveva un po' più di spessore. No, ritornando lì a quello che dicevamo prima dei giornalisti che tirano fuori delle indiscrezioni, ma in genere quando c'è fumo c'è arrosto, magari è bruciato, però c'è, nel senso che è difficile che si metta. Tra l'altro l'alterco tra i due, tra Allegri e Inzaghi, è avvenuto davanti a ragazzi, è difficile da smentire. Centovismar, per cui insomma questa è la realtà, poi dopo si dica quello che si vuole. Guido, io ti ringrazio, ti lascio però e poi ti chiedo un commento di 10 secondi su questa voce di Carrera relativa. Io la trovo surreale come polemica, quella sulla posizione di Conte nello stadio di Firenze martedì sera per l'anticipo della prossima giornata. Sentiamo Carrera. Ma dico solo che bisognerebbe prendere esempio dagli inglesi, dove c'è grande rispetto per le squadre avversarie, per i tifosi avversari, quindi si parla di una cultura sportiva diversa e se riuscissimo a fare questo sarebbe un bel passo avanti. Dove si mette Conte a Firenze? Cioè, è davvero impossibile che stia fra i tifosi? Sì, purtroppo sì, secondo me sì, questo per colpa forse nostra, che abbiamo esasperato questa rivalità, ma non soltanto nostra, nel senso che non sono soltanto i giornalisti che hanno esasperato la rivalità tra Juve e Fiorentina. Qualche dirigente dovrebbe anche in qualche modo farsi l'esame di coscienza, perché conoscendo certe piazze bisognerebbe misurare sempre molto le parole. Conoscendo la situazione che c'è al Franchi, è dura pensare Conte in mezzo ai tifosi se per caso poi in campo succede qualcosa di controverso. Poi potremmo parlare di inciviltà eccetera, cosa che non che però non è meglio prevenire, a prescindere, dici. È meglio prevenire, a questo punto è meglio prevenire. Ho l'impressione che la situazione Conte non è bella, tutti dovremmo farci un esame di coscienza alla vigilia di Fiorentina Juventus per capire dove abbiamo sbagliato e perché abbiamo riportato una partita che era anni tutto sommato che si svolgeva non in clima che si era normalizzata, ma diciamo nella normale normalità italiana, adesso l'abbiamo di nuovo riportata a essere una partita a rischio. È una cosa che non doveva capitare. E ti ripeto, tutti nell'ambiente dobbiamo farsi un esame di coscienza, dai dirigenti, ai giornalisti e ai giocatori, perché quest'estate forse tra caso Berbatov, tra caso Jovetic, si è un po' calcato la mano e il risultato è questo. Abbiamo un po' esagerato. Grazie a Guido Vaciago. Grazie a voi. Grazie a Guido Vaciago. Per chiudere, allora, un paio di voci dalla vigilia della giornata che domani vede il grosso delle partite, cominciando con Zeman e la sua Roma che vuole restare ai vertici. Ma io penso che il campionato è lungo e bisogna disputare 38 partite. Io dico, la Roma dopo la partita con l'Inter sembrava che ha vinto Scudetto e le partite si fanno, si cerca di fare il meglio possibile, è normale. Io ripeto, io ho fiducia in questa squadra, penso che può competere, deve competere e quindi si vede in proseguo del campionato. E adesso Stramaccioni, che alle prese col tabù di San Siro ha ritrovato Chivu, studierà la difesa 3 ma non contro il Siena. Stramaccioni: siamo concentrati per far bene domani e per vincere e sfatare anche questo tabù, che per ora credo sia più nei numeri che nell'andamento delle gare. Però ti ripeto, facciamo parlare il campo e cerchiamo di invertire questa rotta solamente sul campo. Siamo in chiusura, il tempo per dirvi che il Chelsea ha battuto 1-0 lo Stoke, il Bayern ha vinto 2-0 in trasferta contro lo Schalke 04. Saluto e ringrazio Dario Ceccarelli, grazie Dario. Grazie a te. E a voi invece do l'appuntamento per domani pomeriggio a partire dalle 16.30 con tutto il dopo partita, la moviola, insomma tutti i nostri tradizionali appuntamenti della domenica con A Tempo di Sport.